Mix 24, musica e storia. Bentornati su Mix 24, musica e storia. Oggi siamo nel 1995, io sono ancora Alessandra Fiori, qui come sempre c'è lui, Franco Franchi Schipani. Ciao a tutti di nuovo, ciao Alessandra, come va? Sei pronta per questo 1995 di fuoco? Ti piace ridirlo, Molto. Allora, Franco, il giro di boa degli anni 90, che cosa ci fai ascoltare? Vi faccio ascoltare il brano più ballato, cantato e appunto ascoltato del 1995. Mr. Bombastic, we order some bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy, Mr. Lover, lover, lover. Now Mr. Lover, lover, girl. Mr. Lover, lover, lover. Now Mr. Lover, lover. She call me Mr. Bombastic, send me fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Romantic. Call me fantastic, touch me on me back, she says I'm Mr. Smooth. E questo è Bombastic di Shaggy. Sono sicuro che il nostro Alessandro Chiappini, che come al solito ci segue in regia, ha minimo tre copie. C'è il vinile, vinile. No, c'è uno, ha il vinile. Al vinile, ma anche le standard player, c'hai cioè tutta la... Bene, bene. Comunque questo è Shaggy, appunto, il vero nome Orville Richard Burrell, che è nato a Kingston, però è naturalizzato statunitense, ha vissuto a New York quasi tutta la sua vita, cara Alessandra. E quindi è tutta colpa sua se ancora oggi si dice bombastica e bombastico. Sì, è una cosa orribile, ecco, è orribile. Comunque, per il 1995, adesso vi faccio ascoltare quali sono i tormentoni dell'anno. Ascoltato in ordine d'apparizione Be My Lover della Bush, che è un gruppo di Eurodance che si è formato in Germania e che è stato attivo tra il 1994 e il 2001. E poi invece il secondo brano, che si senta questa voce di Olga Maria de Sousa, è invece un gruppo italianissimo, infatti, creato e prodotto da Francesco Bontempi, detto Checco, però col nome d'arte di Lee Merrow. Senti, lo sai che io ho studiato il passato di Alessandro Chiappini e ho scoperto che ha dei trascorsi da DJ, si chiamava addirittura AC DJ e in quegli anni suonava, metteva i dischi. No. Eh sì, era lui, per questo ha tutti i vinili, hai capito? Ecco, hai capito? Perché sì, tutto adesso si spiega. Ho capito. E mentre Chiappini suonava chissà dove, in Italia, dopo la crisi del primo governo Berlusconi del 94, di cui abbiamo parlato, il 7 gennaio del 95 il presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro conferisce a Lamberto Dini l'incarico di formare un nuovo governo, un governo tecnico. Tutti tecnici ministri, 19, sganciati dai partiti e non appartenenti al Parlamento. PDS, Partito Popolare e Lega Nord appoggiano il governo e le forze del Polo invece sono all'opposizione a questo punto. Ma nella politica italiana ci sono due grandi novità, una a destra e l'altra a sinistra. A destra, con il 17° e ultimo congresso del Movimento Sociale Italiano, si chiude una pagina politica e se ne apre un'altra. È la famosa svolta di Fiuggi. Protagonista del congresso è Gianfranco Fini. Il congresso è storico perché noi chiediamo al congresso di voltare definitivamente pagina rispetto a tutto il Novecento. E se per davvero questo è un congresso storico, è storico per le cose che vi sono scritte. Altrimenti è molto meglio dire, come qualcuno ha detto, e forse coerentemente farà anche fuori di qui, anche fuori da N, noi nella storia non ci vogliamo stare. Noi la storia non la vogliamo scrivere. Noi vogliamo continuare a rimanere legati alla storia che c'era ieri. Io voglio guardare alla storia che c'è domani dinanzi a voi e credo di poterla costruire insieme a voi. Ecco, Gianfranco Fini, voltare pagina rispetto al Novecento. È così che chiede ai membri del partito, la MSI, di seguirlo nella svolta partitica, appunto, sganciarsi dal post-fascismo del movimento sociale e andare verso una nuova destra conservatrice. È la nascita di Alleanza Nazionale. L'altra novità, ti dicevo Franco, riguarda la sinistra, perché il 2 febbraio del 95 nasce l'Ulivo. A capo di questa coalizione di centrosinistra c'è Romano Prodi. In due parole, perché Ulivo è bello? Ulivo è bello perché prende le grandi tradizioni della politica italiana, che prima avevano combattuto l'una con l'altra, ma che avevano degli obiettivi comuni, le mette assieme per governare finalmente questo paese in modo decente. Senta, ma con tutti questi centri, che comunque ci sono, non sarebbe meglio che lei, Dini, Maccanico, Bianco e qualche altro, chi c'è, desse vita a un unico centro, con un leader chiaro? Per non disorientare l'elettorato di centro. Ma non capisci che proprio questo è il mio obiettivo. Però siamo partiti con 14 gruppi diversi. Adesso siamo a 4. Però adesso si è aggiunto qualcuno di nuovo? No, perché poi si raggruppa. No, guarda, noi andiamo alle elezioni con massimo 4 gruppi. Il PDS e i Verdi certamente. E poi io vorrei un unico grande gruppo di centro. Ah, lei lo vorrebbe? Certo. Con un unico leader? Questo, con un unico leader. Era quello che voleva anche lei prima, insomma, sostanzialmente. Quello che ho sempre voluto. Ecco, all'appello dell'Ulivo rispondono il PDS e altri partiti della sinistra, ma non Rifondazione Comunista. E l'anno dopo, questa coalizione, l'Ulivo, si presenta alle elezioni e le vince, ma noi ci torneremo. Nel mondo che solitudini ci dà, perché no? Giorgia, come saprei, è Andrea Bocelli che con te partirò. Protagonisti assoluti del Festival di Sanremo del 1995. Hai una deriva bocelliana in questo periodo? Ma se la lo noto. Merita, se lo merita. Se lo merita. Comunque, il 1995 sarà ricordato per questi grandissimi artisti, ma sarà anche ricordato perché a Sanremo sono arrivati Ray Charles, Take That, Madonna, Cyndi Lauper, Gilbert Bécaud, Annie Lennox, Robbie Roberts, Duran Duran e anche Sting. Non si sono fatti mancare nulla nel 1995. Però io voglio proporvi un artista che a me sta particolarmente caro. Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, Cristiana. Deja parar enfermería sin yo tener seguro en cama y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores al ver mi corazón como latía. Uy, me trastearon ante el alma con rayo X cirugía, y es que la ciencia no funciona, solo tú ves su vida mía. Ay, negra, mira, busca amor como insulina y dame vida. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Mix 24, musica e storia. Bentornati a Mix 24, musica e storia. Siamo nel 1995, non sembra, sembra Franco Schipani, sembra di essere su un'isola caraibica con te che balli alternando. Infatti questo Juan Luis Guerra immenso che partecipa al Festival di Sanremo nel 1995 con un altro brano che si chiama La Cosita, però io ho scelto questo brano, La Bilirubina, perché ci sono particolarmente affezionato. Perché ho conosciuto Luis Guerra nel 1986-87, proprio in Repubblica Dominicana. Lui non aveva ancora registrato il suo primo disco, che si chiama appunto Baciata Rosa, di cui la Bilirubina fa parte, e gli disse: guarda, tu sei il numero uno in assoluto, perché è riuscito a portare il merengue nell'ambito del pop mondiale. Lo vedi, cioè, però tu dopo la musica degli anni 60-70 mi stupisci il prog. E adesso arrivi alla musica latinoamericana, cioè è una nuova deriva di Frankie. In Italia oggi ci sono, secondo l'Istat, 17.800 scuole di danza che hanno 1.800.000 ballerini. Non mi dire che balli. Un milione di ballerini, compresi i loro genitori, cioè il giro che c'è intorno a queste scuole di 4.200.000 persone. Tu lo sai che ci sono dei gruppi tipo Luis Guerra, tipo gente che magari non conosci, tipo Gente di Strada oppure Prince Royce, che hanno 2 miliardi di visualizzazioni per canzone. 2 miliardi. C'è una canzone che si chiede di Romeo Santos che si chiama Proposta Indecente, guardatevela, 1.780.000 visualizzazioni. Hai capito, cioè, questo è il nuovo pop mondiale, allora, mia cara. Mio caro, mentre nel 95 si balla e si canta il nuovo pop mondiale, a 3 anni dall'arresto del mariuolo Mario Chiesa, Tangentopoli continua a produrre risultati. Il ministro della giustizia Filippo Mancuso avvia un'azione disciplinare nei confronti dei magistrati del pool Manipulite, che vengono accusati di aver usato la carcerazione preventiva a scopi intimidatori. Il presidente del Consiglio Dini prende le distanze dalle parole di Mancuso, mentre a Napoli, con l'accusa di concussione ed estorsione, viene arrestato l'ex ministro democristiano Paolo Cirino Pomicino. Intanto, dopo le dimissioni di Occhetto, si apre il primo consiglio nazionale del Partito Democratico della Sinistra e c'è da eleggere il segretario, caro Franco. Aia, problemi. Aia. E allora è Massimo D'Alema o Walter Veltroni? Allora, Veltroni sembra il favorito, però vince D'Alema. Pontigallo, come sono bello stamattina, non c'è più la mia. Sono più leggero di una piuma. Oh, intanto zio Rufus sta con i suoi pensieri in testa, portando in giro la vita a fare la pipì per colpa di chi. Stanotte voglio stare acceso e dire sempre di sì per colpa di chi. Ama cucci me. Per colpa di chi, Zucchero? Non ho capito, Franco, per colpa di chi c'è qualche collegamento con D'Alema? No, era così, estemporaneo. Ah, così, nessun collegamento. Assolutamente, però con Zucchero siamo già arrivati al Festival Bar, capito? Ecco dove volevi andare, ho capito. Comunque, grande manifestazione, sì, sempre c'è una piazza importante, che è quella, la piazza degli scacchi di Marostica, poi c'è il Parco Ducale a Color, moltissime altre location incredibili, perché l'Italia è bella. Ma chi vince? Volevi sapere chi vince? Sì. No, non te lo dico, però ti faccio ascoltare uno dei brani che a me è piaciuto di più. Ogni tuo pensiero, ogni singolo movimento, ogni tuo silenzio, ogni giorno di più io trovo in tutto quel che fai, io vedo in tutto quel che sei, la ragazza che da sempre è stata nei sogni miei. Quanto il mondo intorno è più blu, non c'è neanche una salita quando ci sei tu. Tu che sei la perfezione, per fortuna che ci sei. Apro le mie braccia al cielo e penso, sei la più bella del mondo. la più bella per me. Ed era tutta la vita che non aspettavo che te sei la più bella del mondo. E questo è Raff con Sei la più bella del mondo, perché al Festival Bar Mia Cara non si va per vincere, ma si va per partecipare. Ma questa è bellissima, e poi io voglio pensare che dopo avermi dedicato Brutta, questa anche è per me. Te la sei presa. È vero. Comunque, basta guardare in regia, noi c'è l'applausometro e c'è il ragazzometro. Cioè le ragazze, vedi, quando sono felici loro, che ballano, vuol che vuol dire cantano, che hai preso la canzone giusta? Dire, sì, approvo. Ma Raff, io lo approvo, Raffaele Riefoli. Sì, sì, sì. No? Sì, va bene, allora, va approvato bene. Anche da te? Bene, approvato. Bene. E comunque ci sono artisti che hanno capito che magari a Sanremo ci si va o no, forse certe volte è meglio evitare. No. Però il Festival Bar è una grande festa, andiamoci così ci divertiamo. E così la pensava anche questo immenso artista. Ci vuol talento per chiamarlo amore, se chiudi gli occhi ti scoppia il cuore, e allora resta, resta con me, oh resta, resta con me, oh resta, resta con me. Resta con me qui sul mio cuore. Se mi vuoi, sono esattamente come te. Posso darti tutto quello che ho. Prova a chiedermi una carezza per scoprire che la paura è una certezza. E sale, sale, salirà quest'ansia che ci unisce. Musica e storia. Se mi vuoi, sono esattamente come te. Posso darti tutto quello che ho, però. Bento bentornati su Mix 24 Musica e Storia. Franco, ma che bella canzone per questo 1995. Che cosa hai messo prima della pubblicità? Beh, prima c'era Resta Com'è di Pino Daniele. Questa è Irene Grandi che canta sempre con Pino Daniele Se Mi Vuoi. Che poi a Irene Grandi deve essere piaciuta molto molto, perché nel 2002, se non sbaglio, canterà di nuovo un'altra canzone che è Come tu mi vuoi. Come tu mi vuoi, se mi vuoi. Come mi vuoi, se mi vuoi. Allora dobbiamo ricordare che Mina nel 66 ha fatto Come tu mi vuoi. Esatto, che è un l'originale. Capolavoro. E allora io arrivo a questo. Franky. Dimmi, Ale. Come tu mi vuoi, anche una canzone dei CCCP, che è dell'anno prossimo, del 96. È decisamente un'altra cosa, è a partire dal testo. Però io te li ricordo i CCCP. Ho capito, che poi saranno i CS. Bravo, vabbè, bravo. Ho capito, ti piacciono. Non li, hai, bene, non li consideriamo. Va bene. No, provvederò. Bravo, promesso, grazie, promesso. Grazie, ecco. Mentre provvedi, io ti racconto che il 21 novembre del 1995 viene estradato in Italia Erich Priebke, l'ex capitano delle SS che a marzo del 44 partecipò all'eccidio delle fosse ardeatine. Priebke viene rintracciato in Argentina, dove si era rifatto una vita, e pensa che a scovarlo è stata una troupe televisiva statunitense con un'intervista, uno scoop che fece il giro del mondo. Mr. Priebke, sono Sam Donaldson della TV americana. Lei era nella Gestapo nel 44, vero? A Roma? Sì, a Roma. I comunisti fecero saltare in aria un gruppo di nostri soldati tedeschi e per ogni soldato tedesco dovevano morire 10 italiani. Civili? Sì, civili. Per lo più erano terroristi. Ma sono stati uccisi anche dei bambini, ragazzini di 14 anni. Ma perché gli ha sparato? Non avevano fatto nulla. Erano gli ordini che avevamo ricevuto. C'era la guerra, queste cose succedevano. Stava solo seguendo degli ordini? Sì, certo, ma io non ho sparato a nessuno. Ma lei ha ucciso dei civili nelle fosse. Però lei era lì. Sì, ero lì, ma era un ordine del nostro comando. Gli ordini non sono una scusa. In quel tempo un ordine era un ordine. E lei lo ha eseguito? Ho dovuto eseguirlo. Non abbiamo commesso un crimine, abbiamo fatto ciò che ci era stato ordinato, non è stato un crimine. Erich Priebke viene estradato dall'Argentina e arriva in Italia, dove nel 1998 verrà condannato dalla Cassazione all'ergastolo. Muore a 100 anni nel 2013 e anche la sua sepoltura diventa un caso. Verrà sepolto alla fine in una località segreta. Is there a time for cool and lipstick, a time for cutting hair? Is there a time for high street shopping, to find the right dress to wear? Is she che citofonano giù, da mercoledì non ti si vede più, hanno aperto un posto strano, un disco pop, perché non si va. Abbiamo sentito gli 883 con Senza averti qui e prima Miss Sarajevo di un gruppo fantasma, si chiamano i Passengers, con Luciano Pavarotti. I Passengers, ecco. Chi erano? Gli U2, insieme a Pavarotti. Esatto, una deriva, tutta una famigliola. La cosa divertente di questa formazione, i Passengers, appunto con Brian Eno, grandissimo musicista, che enorme, sconfinato, dietro lui uno che ha collaborato con David Bowie e tantissimi altri, insomma una leggenda vivente all'epoca, ecco. E questo brano è tratto da un album che si chiama Original Soundtrack numero 1 degli U2. Cioè Original Soundtrack, nel senso che loro si sono inventati delle colonne sonore ed hanno fatto un disco di colonne sonore inesistenti. Ah, facciamo finta che queste siano canzoni da film. Esattamente. Non male. Che non poi male. Qualcuno ha detto: ma sai che queste canzoni potrebbero essere doppiate per un film? E infatti l'hanno prese? Poi le hanno prese due o tre brani e le hanno messe in gli altri non film. Male. Capito? Comunque, proprio mentre gli U2 suonano Miss Sarajevo, si consuma una violentissima guerra etnica, perché l'11 luglio del 1995, pochi mesi prima della fine della guerra in Bosnia, le milizie serbo-bosniache entrano nell'enclave musulmana di Srebrenica, separano gli uomini dalle donne e li uccidono. un massacro in cui muoiono oltre 8.000 bosniaci musulmani. E per nascondere l'eccidio, i corpi vengono sparpagliati nelle fosse comuni. Oltre al genocidio, il grande dramma di Srebrenica, che i corpi sono stati occultati in fosse comuni, nostro padre non è ancora stato ritrovato e siamo nel 2016. La mia famiglia per tantissimo tempo ha sperato nelle cose più assurde, prigionieri di guerra, prigionieri di lavoro, chissà dove. Non abbiamo parlato degli stupri di massa, non abbiamo parlato di quella guerra, no? Quella che è avvenuta sui corpi delle donne, più di 20.000 donne violentate, anche loro come territorio di conquista, come territorio di guerra. Era una testimonianza terribile raccolta in un documentario di Fanpage del 2016. A proposito di famiglie, questa è una delle famiglie musicali e non solo più famose d'America, è la famiglia Jackson. Questo è Michael Jackson e sua sorella Janet con il brano Scream. Vogliamo fare gli auguri a Janet Jackson? Perché è diventata mamma 50 anni? Certo, facciamole tanti auguri che le arriveranno sicuro. Sì, sicuro. Ecco, invece questo Scream pare che Michael Jackson lo abbia scritto perché infastidito dalla stampa che in quel momento lo stava prendendo di punta per il suo noto processo. Ecco, raccontaci. Beh, il processo, dai, tutti lo sappiamo. Sì. Però la cosa che mi è rimasta in mente è che quando i giudici erano riuniti in camera di consiglio, i giudici, per giudicarlo, io mi trovavo a Los Angeles davanti al Getty Museum. E tutti quanti erano in attesa di questa cosa, tutto, cioè, il ristorante, tutto era bloccato veramente per il verdetto. L'unica persona che era al nostro tavolo al quale non gli interessava nulla era il nostro soundman, che era un ragazzo di colore simpaticissimo, il quale continuava a mangiare imperterrito fregandosene. Ma dico, scusa Mike, dico, ma non ti interessa? Lui mi guarda e fa: "Hey man, he's innocent." Cioè, innocente. Dico, ma scusa, perché innocente? Stiamo aspettando il verdetto. Lui mi guarda e mi fa: "Hey man, that's Michael Jackson." Lui è Michael Jackson, cioè non lo possono condannare. Quindi non può essere colpevole. E infatti, quando poi è uscita la giuria, l'ho guardato e ho fatto: "I told you, that's Michael Jackson." Te l'ho detto, è Michael Jackson. Ed è finita lì. Cioè, eravamo in pochi a dubitare del verdetto, tra i quali non lui, Mike. Around, questa è la cubana Gloria Estefan, finalmente, senza i Miami Sound Machine, che da Cuba è arrivata a vivere felicemente a Miami. Quindi Miami e noi Sound con Machine. Lei rimaniamo all'estero, perché il 26 marzo in 7 paesi dell'Unione Europea entrano in vigore gli accordi di Schengen, che aboliscono i controlli alle frontiere interne dell'Unione, e in gennaio l'Unione Europea passa a 15 stati, infatti si aggiungono Austria, Finlandia e Svezia. Intanto in Francia, il 1 maggio del 1995, Jacques Chirac viene eletto presidente della Repubblica. Pensa che era stato primo ministro e sindaco di Parigi. E Chirac si era presentato alle presidenziali anche nell'81, perdendo però contro François Mitterrand. Nel 95 invece arriva il suo momento e diventa presidente. Meglio tardi che mai. Esatto. Mentre, sempre in questo 95, il 4 novembre, a Tel Aviv viene ucciso il primo ministro israeliano Rabin, artefice del più grande successo militare di Israele, che è la guerra dei sei giorni. Questo uno dei suoi ultimi discorsi pronunciato un mese prima di morire. Siamo tornati e abbiamo costituito una nazione qui in Israele. Ma non siamo arrivati su una terra disabitata. Qui c'erano dei palestinesi che hanno combattuto contro di noi in secoli fatti di pogrom e sangue. I morti sono stati migliaia, da ambo le parti, e per lo stesso pezzo di terra. Possiamo continuare ad uccidere ed essere uccisi. Oppure possiamo interrompere questo infinito ciclo di morte. Possiamo dare una speranza alla pace. A uccidere Rabin sono stati 3 colpi di pistola sparati da un fanatico religioso ebreo alla fine di una manifestazione in sostegno agli accordi di Oslo, accordi che gli valsero il premio Nobel per la pace insieme a Peres e Arafat e che andavano verso una risoluzione dell'eterno conflitto tra Israele e la Palestina. Questa è Tina Turner col Golden Eye. Pensa, quando tu sei una cantante e hai fatto la colonna sonora, la canzone del main title di 007, ce l'hai fatta. Beh, come Adele. Adele. Madonna, Shirley Bassey, cioè, sai, io ho fatto anche quella di 007. Poi sai, 007 mi ricorda anche, per esempio, quando tu hai un format televisivo, ad esempio i pacchi, per esempio, famoso, tutti pensano, oddio, è andato via quel presentatore, adesso il programma fallisce. Non è vero, perché tante volte il format è più importante forte del conduttore. Ecco, 007, da James Bond a Daniel Craig, cioè, ne ha avuti tanti di protagonisti, certo, no? Tanti. Pierce Brosnan, cioè, eccetera, eccetera. Ma scusa, lui, Dalton, Sean. Sean. Cioè, per noi è sempre Sean. È bravo, è Sean. Dov'è? Ecco, però 007, in tutti questi anni, cambiano i protagonisti, però riesce sempre ogni anno a incassare quello che deve incassare. Ecco, comunque, allora senti, ti parlo un po' di televisione in questo 1995. Parliamo di televisione. Che succede? Che succede? Succede che il 21 dicembre c'è un grande e graditissimo ritorno con un nuovo programma. Questo programma si chiama, lo sapete come si chiama? No, troppo moscio, più forte. Caramba, che sorpresa! E quindi parliamo di sorprese. La prima sorpresa è stata la mia. Senti, Franco, caramba, hai capito? Oggi si spiegano un sacco di cose. Bombastico, la carrambata. Però è diventato anche un modo di dire, no? Caramba. Comunque, Raffaella Carrà, dopo alcuni anni passati in Spagna, torna sulla Rai appunto con Caramba, che sorpresa. E va in onda in prima serata su Rai 1 fino a, pensa, al 2002. La prima edizione, che è questa del 95, fa ascolti pazzeschi e ha uno share che sfiora il 40%. Cioè, numeri bulgari che non esistono più. No, esistono ogni tanto, ogni 40%, tanto. 40%, sì. È il tuo Sanremo. Il mio Sanremo. Il tuo adorato, il calcio, Sanremo. Okay. Invece non è una carrambata, è il premio che riceve un italiano agli Oscar. È un riconoscimento, il più prestigioso di tutti, è l'Oscar alla carriera e va a Michelangelo Antonioni, regista di film come Blow Up e Professione Reporter. E pensa che glielo consegna Jack Nicholson. Two-time Oscar winner Jack Nicholson. This year the Academy Board of Directors has voted to present the honorary Oscar to one of the movie's great visionaries, Michelangelo Antonioni. E nel 95 Antonioni è anche nelle sale con Al di là delle nuvole, firmato a due mani con Wim Wenders, grande cast, c'è cioè John Malkovich, Fanny Ardant, Sophie Marceau, Marcello Mastroianni, insomma moltissimi. Però Franco, io mi ricordo questo film del 1995. Sono io, William Wallace, e ho dinanzi agli occhi un intero esercito di miei compatrioti decisi a sfidare la tirannia, agonizzanti in un letto. Fra molti anni da adesso, siete sicuri che non sognerete di barattare tutti i giorni che avrete vissuto a partire da oggi per avere l'occasione, solo un'altra occasione, di tornare qui sul campo ad urlare ai nostri nemici che possono toglierci la vita. Ma non ci toglieranno mai la libertà! Con la libertà, la capisci? Non ce la toglieranno, scena. Che meraviglia! E da uno dei miei preferiti del 95 ti porto nel film preferito della Migliaccio. Ci sono 7 peccati capitali: gola. Non vuoi venire a vedere questo? Avarizia. Che nessuno tocchi niente. Accidia, ira, superbia, lussuria e invidia. 7. Quindi aspettatene altri 5. Il corpo è stato trovato martedì mattina. Odio questa città. Prenderemo il colpevole. Sarà un esempio memorabile. Seven, naturalmente il film preferito da Antonella Migliaccio, con un cast pazzesco perché Morgan Freeman, Kevin Spacey e soprattutto Brad Pitt protagonista insieme a Gwyneth Paltrow, e nasce un amore, il celebre amore prima ancora di Jennifer Aniston. Te lo ricordi? Noi, guardi, assicuro che noi ce lo ricordiamo. Ma io Jennifer Aniston la vedo in Friends. Ah, la vedevi? Ma non me ne perdevo una puntata. Gwyneth Paltrow era ancora. Poi a un certo punto tutte le ragazzine hanno cominciato anche a tagliarsi i capelli, a pettinarsi come lei in Sliding Doors, un disastro degli anni 90. Comunque, il 12 maggio del 1995 scompare una grandissima artista, interprete italiana. Vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai. Dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi. Tanto sai che quassù, male che ti vada avrai, tutta me se ti andrà per una notte. E questa è Mia Martini con Minuetto. Bellissima. Allora, altra canzone che dobbiamo recuperare, perché un gruppo di cui all'epoca non si sapeva molto. Poco? Si sapeva poco, però, ma senti questo pezzo, perché secondo me si faranno. Frankie, scusami, ma che cosa stai tornano i Beatles in classifica con Free as a Bird. E tornano nel 95 in classifica? Così. Nel 95 tornano i Beatles. Allora ascolta, prima di chiudere il 95 come sempre con un brano scelto dalla Migliaccio, allora ti faccio ascoltare anche questa. Certe notti, macchina calda, e dove ti porta lo decide lei. Certe notti la strada non conta, quello che conta è sentire che vai. Certe notti la radio che passa negli anni sembra avere capito chi sei. Certe notti somigliano a un vizio che tu non vuoi smettere mai. No, lo disannunci tu questo. Ligabue, certe notti. Ci siamo guardate io la Migliaccio e abbiamo detto, ma scusa, non c'è. Abbiamo dimenticato qualcosa. Non c'è lui. Non c'è certe notti, non può mancare. Vedi, non può. Cos'altro avete trovato? Perché tu devi sapere che noi ragazzini, quanto ci piace sentirci ragazzini, faccelo fare, Franco. Okay, noi ragazzini degli anni 90, vedi, Chiappini, vedi, Migliaccio, la Caracciolo non la contiamo perché lei è nata negli anni 90, quindi è un'indecenza e non vale. Noi come, insomma, ci stiamo attenti. E però ti vogliamo dare una soddisfazione, perché noi comunque non disdegnavamo in realtà il Festival di Sanremo. E nel 95 si presenta un giovane cantautore romano che arriva, pensa, ultimo tra i finalisti. Però gli ha portato parecchia fortuna. Beati gli ultimi perché saranno i primi. Bravo, bravo. Nel 95 a Sanremo Daniele Silvestri canta L'uomo col megafono e noi lo ascoltiamo e ci rivediamo nel 1996. Quando, Franco? 1996, la settimana prossima. Venerdì prossimo. Sì, ciao, sì, a tutti. Sì. Ciao da Franco Schipani. Ciao da Alessandra Fiori. Parlava di cose importanti, purtroppo i passanti passando distratti a tratti soltanto sembravano ascoltare il suo monologo, ma l'uomo col megafono credeva nei propri argomenti, per questo andava avanti ignorando i continui commenti di chi lo prendeva per matto. Però il fatto è che cercava, sperava, tentava di bucare il cemento, gridava nel vento parole di avvertimento e di lotta, ma intanto la voce era rotta e la tosse allungava i silenzi, sembrava che fosse questione di pochi momenti, ma invece di nuovo la voce tornava staccati dal mondo, lui così magro, profondo, ridicolo insieme, lo sguardo di un uomo che preme davvero qualcosa e che grida un tormento reale, non per un esaurimento privato e banale, ma proprio per l'odio e l'amore che danno colore e calore.